Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 4 giugno 2015, la piattaforma digitale unica. Ad Expo, un marketplace cooperativo che allarga le potenzialità delle imprese. Il progetto della piattaforma digitale unica di Expo 2015 SPA, realizzata grazie a Cefri e il Politecnico di Milano, non è solo la struttura base della Smart City dell'Esposizione Universale, ma anche un modello di cooperazione tra imprese che ne sta rafforzando la competitività. L'auspicio di 3 anni fa pare essersi realizzato, visto che la partecipazione alla grande autostrada digitale per le imprese del territorio, con caselli aperti in tutto il mondo, come era stata definita nell'aprile del 2012, sta permettendo a diverse aziende di proporre un'offerta integrata di servizi finora poco diffusa, soprattutto in Italia. Al di là della vasta piattaforma di servizi e informazioni a disposizione dei visitatori, infatti, il Fuori Expo Digitale si propone come un ecosistema che consente di accedere ai servizi di tantissime aziende italiane e di diverse aziende europee e sta permettendo a quelle del settore del turismo di offrire online centinaia di proposte culturali, artistiche, storiche, ambientali, enogastronomiche. Fin qui la notizia del 4 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. La presidente di Expo 2015, Diana Bracco, al microfono di Alessandra Tedesco, fotografa così le potenzialità di questo sistema integrato. Si viene a creare magari anche prima del 2015 che il cinese che è a casa sua e che decide che vuol venire all'Expo di Milano con un click entra in un sistema molto articolato e quindi trova non solo l'accesso, le regole per arrivare all'Expo eccetera, ma anche i pacchetti turistici, i pacchetti di turismo culturale sull'Italia, perché no, io credo anche dei pacchetti europei, perché non dimentichiamo che il fatto che l'Expo sia a Milano e che Milano sia in una posizione centrale rispetto a tutte le destinazioni europee fa di Milano davvero un marketplace attrattivissimo per tutte le imprese e tutti degli stati europei. Vede che lei in aereo in 1 ora e mezza arriva dappertutto, quindi noi dobbiamo veramente utilizzare questo privilegio. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.